later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sono entrate le truppe del colonnello Unghiute, Cappa e Drago affrontano il problema con l'amministratore delegato. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. In qualità di amministratore delegato della fabbrica di polli, mi trovo in una situazione piuttosto complicata. Ci credo. Se non fossi un convinto assertore del New Age Management, a quest'ora avrei già preso a calci tutte le sedie dell'ufficio. Insomma. Sto parlando delle truppe del colonnello Unghiute. Bel problema, eh? Il colonnello Unghiute merita tutto il nostro rispetto. Ti ha fatto un golpe, gli è riuscito e dunque ha vinto. Noi abbiamo il massimo rispetto per quelli che ce la mettono tutta per riuscirci. Unghiute ce l'ha messa tutta e ci è riuscito. Onore a Unghiute! Onore a Unghiute. Il problema è che io devo fare gli interessi dell'azienda. In momenti come questi che un amministratore delegato deve dimostrare di essere capace di fare il suo mestiere. Forza, lo dimostri, amministratore. Dimostri saper fare il suo mestiere, di meritarsi lo stipendio che prende. Come un re per una nazione, non può abbandonare la nazione in un momento. Vabbè, non è mica la cosa. No. Vabbè, ma come faccio a fare gli interessi dell'azienda senza rischiare che il colonnello Unghiute mi sbatte in un pentolone di acqua bollente? Quello è un po' il problema. Questi nuovi mercati. Vabbè, ma bisogna riflettere per poter risolvere i problemi. Voi fate tutto in fretta, anche due artisti fuori dal mondo come voi sono in grado di capire che sono nella merda. Vabbè, ma insomma, la merda, se vogliamo riassumere, è proprio così. Lei è nella cacca. Ah, cacca. Di gallina, sì, cacca, infatti. Di gallina, ma anche di mercenario. L'esercito di mercenari di Unghiute non è nemmeno in grado di comunicare. Borbottano una lingua sconosciuta. No, ma non è sconosciuta, è francese. Loro sono belgi, dicono cose come le moule, le cozze, oppure non so, la bière trappiste, che è la, che è la birra delle abbazie, amministratore, oppure mon bonbon dans le bonbon des petits enfants. Quello non riesco a tradurlo bene sul. Vabbè, ma io il francese non lo parlo. Noi amministratori delegati, no, caro Drago, noi amministratori delegati dobbiamo sapere solo l'inglese. Ma non è vero, il francese è la lingua diplomatica per eccellenza. Ma questo lo dite voi. Ma in Brasile si parla in francese. Ma quale, quale francese? Il francese non lo parla da nessuna parte, neanche in Francia lo parlano più il francese. E comunque lei non può, deve sapere. Ma no, per noi è vietato conoscere altre lingue. Comunque ci dica alla fine come intende. Le nostre famiglie dove ci mandano quando abbiamo 15 anni e non parliamo neanche l'italiano? A studiare in Inghilterra. O anche in Svizzera. Ma che Svizzera? In Svizzera ci si va per altre cose, cappa. No, Drago. Cosa cappa? Appunto, io non c'entro un po' confuso perché non sa come affrontare. Ma no, sono confuso perché io sono abituato a riflettere da solo, non posso stare qui a parlare con voi. Beh, si è confuso, ma è preoccupato, lo capisco, non sa come affrontare, come convincere quelli di Unghiute, quindi è così. Guardate, io conosco un modo solo per convincere la gente. Sì, ci credo, lettere di minaccia, oppure pollici spezzati. Ma che pollici spezzati? Il 15%, ragazzi. Come il 15%? Sì, il 15%. Io col 15% ho sempre visto tutti contenti. Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante. Io il più bianco, lucente, intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante. Ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso, ammalato, ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte il mio canto, e questo stanotte il mio canto. L'estinzione. L'estinzione è un problema serio. Io ci penso continuamente all'estinzione. E ancora più di me ci pensano le balene, gli elefanti, i panda, i lemuri, i rinoceronti, le scimpanzé, le tigri, i gorilla. Però di loro non me ne frega niente, perché quelli sono animali esotici, mentre io sono solo un pollo, E di noi ce ne sono miliardi in tutto il mondo, Altro che i cinesi. Noi siamo molto più numerosi dei cinesi, noi polli, Però il fantasma dell'estinzione è lì, E non è bello, Anche se a me, in fondo, l'idea dell'estinzione non è che mi dispiace, Anzi, io sono per lo sfascio. Qualunque tipo di sfascio va bene. Anche un'epidemia alla fine è una specie di strage, una specie di attentato terroristico, però rallentatore. Sono un po' indeciso però, Il sbattimento, quello sempre però. Però la paroxetina, Invece l'idea di morire non mi attira per niente. Ma l'idea che possano morire tutti gli altri, quella mi fa stare bene. E quindi, a cosa penso quando penso all'estinzione? L'estinzione... l'estinzione. Senti K, gli annunci continuano a essere in tedesco anche se le truppe francofone di Unghiute hanno il controllo della fabbrica. Sì. Senti. Dovrebbero essere in francese, scusa. Sì. L'amplificazione linéaire, non di lineare Verstärkung. Appunto, oppure in olandese, sai, i belgi, i mercenari, sono bilingui, cannibali. E dunque dovrebbe essere lineare Verstärkung. Lineare Verstärkung. Beh, certo, che bel neerlandista. Le nozioni di primo di classe. La neerlandistica è lo studio della cultura e della civiltà neerlandesi, ossia attribuibili ai parlanti il neerlandese, gruppo linguistico comprendente le lingue olandese e fiammingo, parlate appunto nei Paesi Bassi, nel Belgio settentrionale e in alcune zone delle Antille, del Suriname e dell'Indonesia. Una variante del neerlandese è l'Afrikaans, parlato in Sudafrica. E un neerlandista quindi è uno studioso di neerlandistica. Ecco spiegata la oscura parola pronunziata poc'anzi da K. Questi non capiscono. Come si fa? Da dove vengono? È la teoria del 15% che fa andare avanti le cose, da anni. Quando si dicono le parole magiche, 15%, si sistema tutto. Anche gli africani cannibali che parlano francese. Ora resta da vedere se il 15% lo diamo a loro o ce lo teniamo noi. Questo è il problema. Questa è la sfida da risolvere, da vincere. Allora, noi dobbiamo trattare con Unghiute sulla base del 15%. E poi restiamo sul vago per quanto riguarda le altre cose. Il 15% di cosa e chi si becca il 15%. Se gli facciamo credere che noi ci accontentiamo di mantenere il 15% della fabbrica, con i macchinari e i beni immobili, e poi invece gli facciamo firmare una cosa, in italiano, che dice che lui si becca il 15% della fabbrica senza i macchinari e i beni immobili, ecco che abbiamo fatto un affare. È tutta una questione di PR. È che le PR con dei cannibali sono falsate da un pregiudizio di fondo. Io ho paura che mi mangino. Non è un bel punto di partenza. Se devi trattare con uno che se ha fame potrebbe anche pensare a te come uno spuntino, e ci va un'esperienza fuori dal normale, come la mia. Ma comunque ho piena fiducia nel 15%, perché poi alla fine il 15% è una certezza. Che cosa succederà adesso? La teoria del 15% sarà davvero lo strumento adatto per convincere il colonnello Unghiute ad andarsene? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo corrottissimo allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barumen.